ci sono più le mezze stagioni. Ormai lo sapete, non è più un luogo comune, una frase fatta, ma il titolo di uno straordinario programma. Con me, Roberta Giordano, e con le vostre libere opinioni sui fatti della settimana. Libere opinioni in libero programma. Ne è vero, Stefano Andreoli? Cuoco e tu, libero di fare satira. Certamente, parleremo delle ultime scottanti intercettazioni. No, vabbè, ci sono tanti altri argomenti, Stefano. Vabbè, allora parliamo del pentito che ha fatto il nome... Il nome di un nuovo prodotto per la casa, un vero creativo. Oppure di quel ministro che la sera, come sappiamo, andava sempre a mangiare la pizza nello stesso ristorante. E vabbè, allora non si può dire niente, cosa parliamo del tempo? Bravo, infatti non ci sono più le mezze stagioni. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Radio 24.